la parola va subito al dottor Costantino Esposito, che tutti conosciamo per i suoi recenti scritti heideggeriani, che almeno a me sono sembrati un notevole contributo rispetto agli ultimi sviluppi degli studi heideggeriani, quindi sono sicuro che anche in questa sua relazione su Kant egli non smentirà la bravura che ha dimostrato nel redigere questi scritti heideggeriani. Il dottor Esposito ci parlerà sulle lezioni di filosofia della religione. Sì, l'ipotesi che vorrei brevissimamente e in forma necessariamente molto abbreviata proporvi è questa, che basandosi su questo testo, su questa Vorlesung über die philosophische Religionslehre, che Kant con molta probabilità, come già il collega Cunico prima ricordava, ha tenuto nel semestre invernale 1783-84, ma che sono state pubblicate postume da Pelitz solo nel 1817, la religione possa essere letta in questa maniera, cioè non soltanto come una tematica pratica particolare, laterale o conseguenziale che sia, o metafisicamente speciale all'interno del sistema di Kant, ma in considerazione di tutti i fili che si legano in questo testo, un luogo sistematico e problematico centrale per verificare tutto quanto l'intero progetto critico. Non voglio assolutamente dire che si debba forzatamente ricondurre la critica di Kant tutta intera a filosofia della religione, è chiaro, ma al contrario suggerire che la tematica della filosofia della religione può essere assunta come un punto privilegiato di osservazione e di verifica dell'itinerario testuale o dell'itinerario problematico della critica kantiana. Proprio perché la religione, questa è la mia ipotesi, epistemologicamente parlando, può essere vista come un luogo di passaggio, di cerniera proprio tra la ragion pura teoretica e la ragion pura pratica. A differenza della religione del 93 e in maggiore collegamento con le opere critiche, qui Kant imposta il problema religioso come un problema prettamente teologico, teologia trascendentale e teologia morale, laddove nell'opera del 93, come sappiamo, la religione è tematizzata in un senso più storico-antropologico. In via del tutto sommaria, vediamo alcuni dei fili che si annodano e si ritrovano in questa Vorlesung. Primo, testualmente troviamo il significato, la ripresa del significato teoretico e negativo dell'idea di Dio, tipica della prima critica, come ipotesi possibile e insieme necessaria. Secondo filo, troviamo un significato pratico positivo del postulato di Dio, pare tematizzato qui per la prima volta, in ordine alla realtà oggettiva della moralità, quindi idea e postulato. Terzo filo, terza tematica, la realizzazione della finalità morale, se ne è appena parlato, come principio universale della natura intera. Quarto filo, la gerarchizzazione di religione naturale o religione di pura ragione e di religione empirica, di rivelazione interna o di rivelazione storica. Infine, quinta tematica, il problema del male, in particolare l'origine del male, appena citato ancora, come incompiuto sviluppo del germe per il bene e la sua cessazione tramite lo sviluppo compiuto della ragione morale. Ho voluto dare da principio il quadro in maniera molto sommaria, giusto per non perdere nulla nella assoluta brevità degli spunti con cui cercherò di sviluppare questo plesso intricato di tematiche presenti nelle Vorlesungen. Ad un primo sguardo, e devo dire man mano che si leggono queste Vorlesungen l'impressione non passa ma si approfondisce, queste lezioni si presentano come un'opera di metafisica critica. E per intendere cosa si voglia dire, tutto il complesso significato del termine, accenna soltanto al fatto che in questo corso di lezioni Kant legge basandosi sulla Vorbereitung zur natürlichen Theologie, la preparazione alla teologia naturale di Eberhard, pubblicata nel 1781 anch'essa, come la prima critica, e soprattutto sulla metafisica di Baumgartner, 1739. Brevissimamente, per Eberhard, la preparazione alla teologia naturale è, cito, la scienza delle regole per la formazione della più perfetta conoscenza di Dio nell'intelletto umano e per la sua comunicazione. Secondo Eberhard, questa preparazione consta di una parte teoretica nella quale viene esposta l'origine della conoscenza di Dio e le regole della sua perfezione, e di una parte pratica, cito, che conterrà le regole della comunicazione di questa conoscenza. E è appena il caso di ricordare che invece per Baumgarten Theologia naturalis est scientia de Deo quatemus sine fide cognosci potest. E questa conoscenza, a prescindere dalla fede, viene articolata da Baumgarten in una Tractatio de Dei Conceptu, comprendente l'esistenza di Dio con i predicati necessari, e una Tractatio de Dei Operationibus, vale a dire la creazione e la provvidenza. Anche per Kant la teologia qui si presenta come indipendente dalla fede, ma solo in quanto essa si applica alla moralità. E la religione altro non è appunto che l'applicazione della teologia alla moralità. Dunque, in questo contesto la religione viene presentata proprio come ambito di rifondazione della metafisica, o per meglio dire, la religione sta a indicare per Kant la risignificazione della theologia naturalis come theologia moralis. La religione permette così un vero e proprio trasferimento di piano. La considerazione naturale di Dio, e cioè il maximum della determinazione metafisica da parte della ragione, Dio oggetto supremo della metafisica, si prospetta ora, in questa interpretazione kantiana, come autodeterminazione morale della stessa ragione, al cui interno, all'interno della ragione, va riconosciuta una vera e propria struttura teologica. Quindi mi pare che si possa vedere da questo testo come l'oggetto della teologia non sia appunto un oggetto cui la ragione umana intenda, inteso dalla ragione umana, ma ancor prima sia una struttura epistemologica a livello teologico, una struttura teologica a livello epistemologico della ragione. Brevissimamente, quando qui Kant parla di teologia naturale, lui usa questo termine in due sensi, uno più ampio, più fondamentale, e uno più ristretto e più tecnico. Forse vale la pena ricordarli per capire come la stratificazione dei significati. Primo termine, la teologia naturale, nel suo senso generale più ampio, comprende in sé due parti, teologia razionale e teologia empirica. Quindi non soltanto teologia razionale, ma anche teologia empirica. La prima, la teologia razionale, si suddivide a sua volta in teologia speculativa e in teologia morale. L'altra ramificazione della teologia naturale, vale a dire la teologia empirica, non essendo Dio un oggetto di esperienza, richiede, cito, l'aiuto di una rivelazione divina. Fine. Ma anche in tal senso la teologia empirica rimane teologia naturale. Diremmo perciò che qui il termine naturale va inteso in riferimento costitutivo al potere o all'impotenza della ragione, cioè alla strutturazione stessa della ragione rispetto alla sua dimensione teologica. D'altronde, alla fine delle lezioni, affrontando il capitolo baumgarteniano De Revelazione, Kant preciserà che, cito, ogni rivelazione può essere suddivisa in esterna e interna. La rivelazione divina interna è la rivelazione di Dio attraverso la nostra propria ragione. E in tal senso, è sempre Kant che parla, essa deve precedere tutte le altre e deve servire a giudicare quella esterna. Essa deve essere la pietra di paragone sulla quale conosco se vi sia una rivelazione esterna di Dio. Secondo significato, la teologia naturale, in un senso più stretto, quindi nel primo significato la teologia naturale significa razionale e insieme empirica. Nel secondo significato più ristretto, la teologia naturale è solo una parte della teologia speculativa, la quale, a sua volta, comprende in sé una teologia trascendentale e una teologia, appunto, naturale. La teologia speculativa trascendentale considera, tramite la prova ontologica, Dio l'ens originarium come ens summum o ens realissimum, quello che necessariamente esiste ed è la causa del mondo. Invece, la teologia specificamente naturale è quella che si sviluppa tramite la prova cosmologica e quella fisico-teologica, considerando l'ens originarium, secondo gli attributi che di esso si ricavano dall'esperienza della natura, come summa intelligenza e come l'autore del mondo. In questo senso, cito, Dio è pensato come un Dio vivente, come un essere libero che, in base al proprio libero arbitrio, senza alcuna costrizione, ha dato esistenza al mondo. Ma, a ben vedere, forse c'è ancora un terzo significato di teologia naturale, quello forse a cui Kant tiene di più. Teologia naturale compiuta è proprio la teologia morale, o, come anche Kant la chiama qui, theismus moralis. In essa, l'ens originarium è assunto come summum bonum. Cito, qui, dice Kant, Dio deve essere pensato non soltanto come la somma facoltà conoscitiva, bensì anche come il sommo fondamento della conoscenza, come un sistema di tutti i fini. Fine citazione. Qui Dio è pensato come dominatore del mondo, nel senso che, cito ancora, in base al solo libero arbitrio, cioè se la considerassimo solo come causa o come autore del mondo, egli poteva certo produrre qualcosa, ma senza essersi ancora prefisso un fine. Nella teologia morale, sempre Kant che parla, invece, consideriamo Dio come legislatore del mondo in relazione alle leggi morali. In questa prospettiva, la teologia naturale pienamente e propriamente razionale è la teologia morale, appunto in quanto permette di pensare a Dio come idea pratica necessaria. In queste lezioni, dunque, possiamo vedere in opera il passaggio dell'ontoteologia in teologia morale. La questione qui non riguarda solo il vocabolario della scuola razionalista adoperato da Kant per fare lezione, ma l'intenzione propria della filosofia critica rispetto alla metafisica della tradizione, la quale, questa metafisica tradizionale, non viene più assunta in senso teoretico-dimostrativo, ma in senso ipotetico e propedeutico. Allora, ipotetico come apertura dell'ampiezza ideale della ragione, quello che viene chiamato ideale regolativo nella prima critica, e come riduzione della predicazione ontologica di Dio ad un minimum, così lo chiama Kant, un minimum theologicum, richiesto per poter pensare idealmente Dio, minimum soggettivo e mai oggettivo. Ma oltre ad avere un significato ipotetico, questo discorso ha anche un significato propedeutico, in vista della fondazione, stare per dire dell'autofondazione, della teologia morale. Ovviamente non è possibile ripercorrere tutti i passi di Kant, non sarebbe forse neanche utile in questo contesto. Vorrei soltanto sottolineare che questa interpretazione che Kant fa della tradizione metafisica è una sorta di utilizzazione di elementi della metafisica tradizionale in un contesto differente. Dopo aver messo radicalmente in questione, sulla base della prima critica, la possibilità oggettiva e conoscitiva dell'edificio metafisico in quanto tale, tutto intero, nella sua intera sistematicità, Kant, e questo è interessante, non abbandona l'edificio della metafisica come se si trattasse di rovine, ma lo riattraversa come un visitatore affascinato, ma al tempo stesso distaccato. Le prove per la dimostrazione dell'esistenza di Dio vengono riesposte e riattraversate con l'attenzione e anche la precisione di chi sa di essere al centro, al maximum del sistema, al maximum della possibilità ideale della metafisica come determinazione della omnitudo realitatis, e al tempo stesso vuole da una parte rigettare la determinazione ontologica, dall'altra parte salvarla riducendola a possibilità ipotetica. Sintetizzo, già la prima critica aveva detto, dopo aver dimostrato cosa significhi uso regolativo dell'ideale della ragione, cioè riguardante l'omnitudo collettiva dell'uso dell'intelletto, aveva detto, cito: tuttavia, se mai sotto altro rapporto poniamo, sotto quello pratico, il presupposto di un essere supremo e onnisufficiente, come somma intelligenza, affermasse la sua validità senza contraddizione, allora sarebbe della maggiore importanza determinare esattamente, dal lato trascendentale, questo come il concetto di un essere necessario e realissimo, vale a dire un residuo di legittimità metafisica a livello trascendentale sussiste se è utilizzabile sotto un altro rispetto che quello speculativo, sotto un rispetto pratico. È a questo punto che la tematica della critica della ragion pura rimbalza in quella delle lezioni, perché appunto le lezioni, dando per acquisito il cammino della critica, mettono in luce proprio, lo ricapitolano dal punto di vista della pura pensabilità di Dio in merito, in ordine alla fondazione pratica della teologia. E a questo proposito soltanto un'ultima annotazione. In questo rinnovato uso della teologia metafisica, la teologia è chiamata da Kant trascendentale, e testualmente dice, in quanto riguarda il principio di ogni possibilità. Quindi a questo livello trascendentale, e qui il termine è un po' ambiguo, io parlo del fatto del professor Linsky, ho quasi timore a puntualizzare la cosa, ma il termine è un po' ambiguo proprio perché da una parte è aperto all'uso critico deciso del trascendentale, dall'altra parte però fa risentire la eco della trascendentalità metafisica in ordine alla pura pensabilità di Dio. Il passaggio dalla prima critica alle lezioni viene imperniato da Kant sullo statuto epistemologico della teologia. Questo statuto è importante perché è il luogo di un incrocio tra possibilità speculativa e necessità morale. All'inizio delle lezioni Kant definisce la teologia, cito, il sistema della nostra conoscenza dell'essere sommo. Ma precisa subito che questo sistema della conoscenza di Dio non significa l'insieme, in Begriff, di tutte le possibili conoscenze di Dio, sarebbe una teologia archetipa questa, bensì ciò che di Dio viene trovato dalla ragione umana. E si chiede, ma fin dove può giungere la ragione? Cito, in che senso la nostra conoscenza di Dio o la teologia della nostra ragione possiedono un qualche valore? Abbiamo una conoscenza dell'oggetto che sia adeguata al valore dell'oggetto stesso? La risposta sarà possibile solo nel passaggio dal piano teoretico a quello pratico. Cito, nella morale vediamo che non è semplicemente l'oggetto che ha un valore, ma anche la sua conoscenza, ha in sé un valore. Fine citazione. La nostra teologia non può vantarsi perciò di poter oggettivare il sommo valore, giacché nei confronti di quest'ultimo essa rimane, cito, solo un'ombra. Tuttavia, in quest'ombra può accadere un'altra illuminazione. Cito ancora il passo decisivo. La vera domanda sarà dunque, ciò nonostante, vale a dire nonostante l'impossibilità di determinare Dio come oggetto, ciò nonostante, la nostra conoscenza possiede sempre un valore? La risposta è perentoria, sì, in quanto si rapporta alla religione, poiché la religione non è nient'altro che l'applicazione della teologia alla moralità, cioè ai buoni principi, e una condotta gradita all'essere sommo. Fine citazione. Nella misura in cui questa religione, come religione naturale, si badi sempre, cioè substrato di ogni altra religione, costituisce il rapporto, scusate, il supporto di Stütze e la saldezza, Festigkeit, di ogni principio morale, la teologia possiede un suo intrinseco valore. Cito, in quanto costituisce l'ipotesi di ogni religione. La teologia costituisce l'ipotesi di ogni religione e dà peso, Gewicht, a tutti i nostri concetti di virtù e rettitudine. Si badi, il supporto è dato dalla religione, non da Dio in quanto tale, ma dalla sua idea già praticamente curvata. Così il valore della teologia sarà misurato dalla religione, è la religione che decide il valore della teologia, anche se è la teologia che poi circolarmente condurrà alla religione. E a questo riguardo appunto Kant, ma non leggo per fare in fretta, accenna a quel topos di cui parlavo prima, cioè che vi è un minimum di teologia, cioè un substrato irrinunciabile, un nocciolo irrinunciabile della teologia, che è questo, che vi è bisogno di una religione e che il concetto di Dio è sufficiente per la religione naturale. Si badi, la verità minima della teologia è che vi è bisogno di una religione, ma qui religione non significa solo un bisogno che ha la ragione, un bisogno avvertito in qualche modo da parte della ragione umana, ma significa proprio che la struttura trascendentale della ragione è un bisogno essenziale, quello di compiere la possibilità speculativa come realtà pratica. Taglio in maniera drastica tutte le note riguardanti la teologia morale, che è forse proprio la parte più originale di queste Vorlesung, perché sempre basandosi su Baumgarten e riprendendo tutte le attribuzioni ontologiche della perfezione di Dio date da Baumgarten, Kant, in maniera molto interessante, si appropria di queste attribuzioni metafisiche volta per volta, riducendole in funzione teologico-religiosa a prove del teismus morale, soprattutto contro gli atei dogmatici e gli atei scettici, e soprattutto anche contro i deisti. Ma per concludere vorrei appunto parlare brevemente del problema del male, riprendendo alcune cose che il collega Cunico già prima diceva, in un'altra prospettiva. È importante questa tematica perché, come Pelitz stesso nella prefazione all'edizione di queste Vorlesung dice, in un certo senso la pubblicazione di queste lezioni mette di nuovo l'anima in pace, ridà tranquillità a tutti quegli spiriti tardo-illuministici e romantici che avevano individuato nello scritto del 93 di Kant una indebita e sconveniente concessione al cristianesimo attraverso appunto la dottrina del male radicale, agli occhi appunto sotto il ministerio censorio di Wöllner, come è noto, dice Pöritz. Agli occhi di Pöritz invece rimettere in circolazione queste lezioni fa da contrappeso a questa indebita concessione di Kant al cristianesimo, perché dà la autentica concezione del maestro in tema di male. Brevissimamente, il problema viene impostato come un problema classico di Teodicea, e infatti Kant lo presenta come risposta alle obiezioni riguardo agli attributi morali di Dio, santità, bontà e giustizia. Vado velocissimamente perché se ne è già parlato. Se si tiene conto che questi attributi, santità, bontà e giustizia, sono considerati da Kant, a differenza di Baumgarten, quali contrassegni ideali della stessa moralità, e perciò perfezione di Dio, in quanto Dio è inteso come realizzazione oggettiva della moralità, si comprenderà meglio la risposta che Kant dà a questo problema nelle lezioni. Contro la santità si chiede qual è l'origine del male morale, das Böse. Contro la bontà, da dove viene il male fisico, das Übel, nel mondo. Contro la giustizia, donde la distribuzione ineguale del bene e del male nel mondo in contrasto con la moralità. L'ottimismo metafisico o il pessimismo manicheo non sono più soluzioni percorribili. La soluzione al problema andrà piuttosto individuata proprio nella dinamica dell'autorealizzazione morale della ragione. L'uomo è l'unico essere che ha il potere di ricavare e elaborare da se stesso la propria perfezione, come Kant d'altronde ricorda nello scritto Coevo dell'84, idee di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico. Per questo Dio, non dico più quando c'è la citazione di Kant per brevità, ma ci sono molte citazioni di mezzo, per questo Dio l'ha creato libero, dandogli talenti e capacità da sviluppare, ma anche istinti animali da dominare. Perciò l'uomo, come disposizione, era certamente perfetto secondo la sua natura, anche se ancora rozzo, sicché alla prova della sua libertà l'uomo cade. Da rozzo e perfetto animale diventa un essere libero ma stolto. In questa prospettiva, però, la perfezione sarà proiettata in un progressivo avanzamento fino all'idea dell'essere morale perfetto. Il male del mondo così è visto come l'incompiuto sviluppo del germe per il bene, di cui già si è parlato, niente di originario dunque, ma una mera negazione, una limitazione del bene, la sua incompiutezza a partire da una condizione di rozzezza. L'origine del male, questo è assai interessante, va allora pensata come il primo sviluppo della nostra ragione verso il bene. In questo senso il male non è, cito, inevitabile. Anzi, Dio ne vuole l'eliminazione attraverso l'onnipotente Allgewaltige, attraverso l'onnipotente sviluppo del germe del bene. Se questo germe è onnipotente, allora il male è solo la conseguenza collaterale del bene. E se la ragione è, che è propriamente il germe del bene, all'inizio è usata dall'uomo a servizio dell'istinto, alla fine, cioè mediante la legge morale, l'uomo arriverà a sviluppare la ragione per se stessa, ihrer selbst willen. Conseguentemente, la soluzione sarà che, cito, quando alla fine l'uomo si è sviluppato totalmente, allora il male cessa da se stesso. Dio è dunque giustificato rispetto al male, perché l'intera specie del genere umano, cito ancora, alla fine giungerà alla perfezione e dovrà liberarsi e distaccarsi dai suoi istinti per mezzo della propria natura. In tale sviluppo, conclude Kant, risulteranno anche alcuni passi falsi e insorgeranno alcuni vizi, ma A suo tempo tutto dovrà conseguire un risultato glorioso. Sappiamo che nella religione invece Kant parla di un male radicale, una tendenza che corrompe il fondamento di tutte le massime e che pur non potendosi estirpare con le forze umane deve pur essere vinto con la libertà. Una cosa, mentre nelle lezioni vediamo che il germe per il bene possiede una dinamica onnipotente in cui necessariamente alla fine di questo sviluppo il male cesserà da se stesso. Soltanto a modo di conclusione una nota così a margine. In entrambi i casi, comunque si voglia interpretare la questione, che il male permanga aporeticamente nella sua radicalità o che il male cessi alla fine del progresso razionale, una cosa resta assodata, cioè che il Dio di cui parla Kant non può egli stesso salvare gratuitamente questo male di fronte alla libertà e alla coscienza dell'uomo, perché, cito sempre dalle Forlesunghe, non si riesce affatto a capire in che modo Dio, ferma restando la nostra libertà, concorra alle nostre azioni. Fine citazione. O meglio, se anche lo potesse, e teoreticamente non possiamo negare che Dio concorra, perché non abbiamo ragioni apodittiche per negarlo, rimarrebbe sempre incomprensibile alla mia ragione, cito ancora le lezioni, in che modo un qualcosa che non si trovi già in essa, ma oltrepassi ogni ragione, possa però essere necessario all'umanità intera per il suo benessere. Qui emergono quelli che Kant chiama dei veri e propri misteri della religione razionale. Anche la religione razionale ha i propri misteri. Per esempio, può Dio rendere felice un uomo che non ne sia del tutto degno? A noi, dice Kant, che lo pensiamo come giudice, è impossibile comprenderlo e di conseguenza è impossibile rimetterci alla sua bontà. Ci basta aspirare noi stessi a esserne degni. Qui, di fronte al mistero e soprattutto di fronte ad una bontà non più identificata con la giustizia e quindi non più solo necessaria ma gratuita, per Kant è, cito, il profondo silenzio della ragione. Rimane un problema. Se questo silenzio sia solo un trattenersi dal parlare su quanto non si sa con certezza e quindi lasci lo spazio libero per un'altra possibilità della religione, o se questo silenzio non sia il non poter ascoltare altro che il comando stesso della ragione. Grazie per la vostra attenzione. Siamo noi che ringraziamo il dottor Esposito per questa brillante